Non so, perché questo qui c'ha un attacco particolare, non sai di più. È un casino a fare l'attacco a questo apparecchio. Tutte le giurie del col test, ci dovrebbe essere problema. Si appaga. Ma il tarifetto è quale? C'è quello grigio? Sì, è quello originale. Sì, sì. Quello? Quello originale che c'ha le scritte in inglese. Sì, esatto. Ho capito. E vabbè, ti possono sempre servire, anche io ne ho qualcuno di riserva, non sia che si rompa qualcuno, c'ho l'altro. Ti possono sempre servire, Natali. Sì, è un dirattacco le mezzi 60. Ci vuole un chilo per attaccare questo. Sono io che ho deciso. Beh, non è intenzione, no. Questo modo di esprimermi. No, no. Grazie a questo l'apparecchio che va benissimo. Già va bene, infatti. Questo lui è CRT, è quello lì. No, questo è... come cavolo si chiama? Ma non mi rammento, non è CRT però. È l'originale. D'Antona. Anitone, l'Anitone 5555 con 45. L'originale è questo. Come watt? Cos'è? Un monogatto è quello lì. Parte da 2 a 15 watt in AM, poi FM, banda laterale 30 watt da in FM, mi pare, e 60 in banda laterale. È buono, dai. Ma è tutto quanto, come si dice, non meccanico, ma non mi viene a parlare. Sì, digitale, dai. Però funziona benissimo questo l'ho preso nuovo, mi c'è ancora, lì ce la fanno attaccato a dove c'è il frequenzimetro. Ma stai uscendo col microfono suo? No, con l'MB4 sto uscendo. Cosa c'è? L'attacco a 4 quello? Sì, già. Già va bene, se non costa molto. Sì, non me lo ricordo quanto l'avevo pagato. E meno male, ha fatto arrivando questo e rompendosi il 3009, dimmi tu. Ma non ce l'ha mai fatta aggiustarlo col 3009, così? No, no, non si può acconciare. Perché c'ha tutti i componenti diversi dal vero 3009. E magari se lo prendi Albino in mano ci riesce a aggiustarti. Albino è un bravo. Ne ha aggiustato apparecchi che volevano buttarti. Sì, lo so, ma questo non trovi schemi, non trovi niente, perché la ditta francese che l'ha costruito non ne rilascia di schemi. Capite? Quindi sei vutito. A chi mi so tutti i componenti diversi da chi si verano nel 3009. Se era stato un 3009 normale era stato aggiustato e sarà aggiustato. Perché quella persona li conosce come le tasche sue. Vabbè, che la vuoi fare? Un casino, a me mi era arrivato invece, avevo preso il Midland Alan 48 modificato dalla fabbrica, c'aveva il coccolte, c'aveva tutto. E cosa mi è durato? Una settimana, un giorno sono andato a accenderlo e non accendeva più, controllo, cambio fusibile, faccio, niente. Partito, apro, un odore di fumo, di gos, di bruciato, che mi è durato da Natale a Santo Stefano. Ma c'era stato il diodo di alimentazione partito. Ma cosa ne so, io te la giuro, te la giuro un brutto, non me ne fregava nulla. Mi ho preso i coperchi e le cose che mi servivano, te la giuro. E me ne ho preso uno nuovo, ho risolto il problema subito. Io lo metto seguito, te la giuro lampato, cosa me ne vuoi? No, non lo puoi aggiustare. Se lo potevo aggiustare me l'avrei aggiustato perché mi piaceva come apparato, ci va bene. Sì, l'avrei tolto i coperchi, le manopole, le cose che ti interessavano, lo smitter. No, all'interno non le avrei buttate, avrei preso i pezzi che mi interessavano. E c'ho i coperchi, male, c'ho. Male, dai. come buttato? 3.900 l'ho buttato, cosa me ne basico, se non si può aggiustare, che la ditta francese gli schemi non li rilascia, capito? È per quello che non l'abbiamo potuto aggiustare, perché c'erano i componenti che erano diversi dal 3.900 originale, quindi non è coglivi piede. Si poteva invalizzare tutto, vabbè, i coperchi, la staffa, i pomelli, le vette, le manopole, cioè lo schermo, come si dice, il frontalino. Sì, cosa mi nipozzo, se apparato non è un bello, che cavolo, una gabicina, già va bene questo, mi è avanzato solo questo come apparato, quindi va più che bene. Figa. A me sarebbe piaciuto avere, allora, il 3.900 c'era uno con display blu dei canali, uno con display rosso classico, ne avrei voluto uno con display verde. Figurati. No, il mio era con i numeri rossi, quello normale. Ma guarda, è per la frutta che ce l'ho buttato, perché no? Se non si poteva aggiustare, cosa volevi fare? Cioè, ci ha buttato tutto, microfono, cordone di alimentazione, quelli valgono oro. Sì, sì. Ah, e poi se noti su internet, tu vai su eBay, no? Vuoi lo smitter del 3.900, te lo vendono di solito, wow, dagli Stati Uniti o quantomeno dall'Inghilterra, e vedi 35 euro più spedizione, ci fanno pagare roba di 20 o 30 euro di spedizione dall'Inghilterra, ma questi sono matti. Tutto lo stesso staffa, pomelli, ti chiedono un beh ti chiedono. Perché sanno che se uno ne ha necessità la cifra la spende, capito? Per esempio molte persone vendevano su internet, ma non solo, anche così sui forum dei radioamatori civili, tutti apparati senza staffa. Senza staffa, quindi uno in macchina se l'attacca, non lo può mettere. Io parlo di staffa originale e di pomelli originali, certo se mi fai un pezzo di ferraccio adattato, grazie, però la roba deve essere originale. Quindi vedevano baracchini con cavo di alimentazione diverso, tipo saldato dentro, niente staffa originale, niente microfono originale, di originale non c'era nulla praticamente, solo l'apparato seppure. A me mi arrivi duro apparato che era tutta un'altra cosa, figurati. Io su me non ci sono più andato perché ci vuole la carta per comprare e fare, prima pagavi la consegna, adesso ci vuole la carta, non te ne fanno di pagamento alla consegna, quindi io adesso non do più soldi a nessuno se non me lo fanno pagare quando arriva, se no non li do soldi perché a me mi hanno già rubato 200 euro, mi basta quello. Io devo dire adesso no, quelle così no, però su un certo forno l'abbiamo chiuso. Io avevo ordinato questo famoso transfer della Electronic System, no, per i 40 metri, 40-45. Sì, funziona tutto perfetto, e invece in trasmissione non trasmetteva, non ha mai trasmesso. Funzionava in ricezione bene, ma la trasmissione era andata, e lì lo contatti, il privato, ma è strano, che è strano, invece l'avrà saputo benissimo, qui alla fine non te le cambiano, e cosa gli fai? Causa per 50 euro, per dire, il quale l'avevo pure regalato a qualcuno per ricevere i 40 metri. Marco, vi siete sovramodulati con Natalino, non ne ho capito la cifra di quello che avete detto. Vai Natalino. Adesso mi stritta cosa stavo dicendo. Ah, del computer, il mio comprato i pezzi da Amazon e me l'ho costruito a pezzo, mi ho fatto il computer nuovo. E io ho detto invece che in un certo forum CB Radiatori avevo ordinato un trasverter che secondo lui era perfetto, no? E invece la trasmissione non funzionava, a me interessava la ricezione. la trasmissione non funzionava, poi lo contatti, il privato dice che strano, funzionava e vabbè lasciamo. Quindi è stata quella la prima e l'ultima volta che ho comprato roba usata da questi forum, CB radioamatori, eccetera. Non mi fido più, già usato io non ne volevo prendere da prima. In più è bastata una singola esperienza per avere l'ulteriore conferma. Sì, ci sono anche le ditte che sono serie, perché io l'apparato l'ho preso da una ditta ed era praticamente malattito revisionato prima di mandarmelo e tutto quanto. L'ho pagato qualcosa in più, però almeno hai un apparato che funziona bene. Questo era un privato già, era un altro utente del forum che vende un bel di roba, però non poteva non sapere che non trasmetteva, anche perché il finale a guardarlo era assai lonfio, non era manco originale quello, e comunque non funzionante. Però riceveva bene, l'avevo regalato quel transverter, però non mi ricordo a chi, forse Antonello Di Orsi. Io ce l'avevo il transverter a 3 bande, era 6 bande faceva, là. Faceva quelle legali e quelle private. Vi ricordate dal catalogo CQ, cos'è CQ elettronica, sai quelli inserzionisti, il Super Pantera, il baracchino che sembrava un 3009, Super Pantera con 11, 40, 45 metri, 80, 88 metri, praticamente c'era il transverter completo, forse anche 20 e 23 metri aveva, tutte le bande pirata aveva. Sì, la scheda c'aveva dentro, era un transverter che aveva dentro. Sì, sì, guarda, secondo me era quello Electronic System, mettevano solo la scheda, no? Poi da una manopola selezionavi la banda, Super Pantera, certo il prezzo era ovviamente molto su perché ti faceva un po' tutto. Ce l'avevo anch'io quello lì. Ma sai che tuttora vendono, l'ho visto su un sito, un venditore normale, no, di radio elettronica, ancora vendono le antenne per i 45 metri, c'era un'antenna veicolare per i 45 metri, in fibra di vetro, credevo non ne vendessero manco più. Sì, ce l'avevano i camionisti, quella roba lì, perché andavano quelli che fanno l'estero, così parlavano con casa. Lo usano più che altro, vabbè che ormai non ha senso perché, vuoi dire, lo facevano 20 anni fa, 30 anni fa, quando non c'erano i cellulari, posso capire, sì. E poi avevano invece sterminato quelli abusivi che stavano a 6585, quelli che facevano ruota là, normale. Li hanno sterminati tutti quelli. E che mi pare più di uno erano vecchi radioamatori, cioè potevano parlare anche in bande normali per loro, e che non ne avevano più voglia, non c'avevano nulla da perdere, c'erano anziani, ci usavano a tutti. Vabbè. Però hanno sbagliato in una cosa, che attaccavano il lineare per parlare, capito? E però disturbavano le frequenze che non dovevano disturbare e per forza li hanno terminati. Guarda, se non ricordo male, si era lamentata non so se si chiami Ofcom, il coso inglese per le telecomunicazioni, perché disturbavano telecomunicazioni quindi aeromobili inglesi, no? Perché quella mi pare sia una banda aerea che funziona però non in USB ma in LSB, in quella porzione di banda, capito? Infatti funziona proprio così, e loro andavano a rompere le balle agli inglesi. Comunque io personalmente non ci credo che coincidesse la frequenza che usavano loro proprio con la frequenza, non ci credo manco per il gol, però fatto sta che se questo ente si è lamentato con le autorità italiane e lì hanno dovuto per forza, capito, abbassare la scure e dare un colpo di accetta. Non si è arrivato. E vabbè, un certo fascino aveva quella banda lì però, cioè è troppo facile anche, perché te lo ricordi, sì. fischio, sì, avanti il fischio. Ah, io non ci andavo, ma io sono una persona come si deve, io non ne ho mai fatto pirata. È abusivo, ti ricordi il termine, abusivi. Ma Ciccino, non si scherza più con sta roba, poi stanno andando a stringere tutte le leggi, hai visto? Il codice alla strada è sempre più restrittivo. Adesso mi pare le macchine nuove dovranno essere dotate di questo. Ci devi soffiare dentro, ma soffiatemi, vabbè. È un coso di una dotazione di bordo, come si chiama? L'etilometro. Ehi, se tu non sei sano non parte la macchina. Ed è giusto che sia così. Ma io mi porto un soffietto, sai quelli, un palloncino pieno d'aria, faccio soffiare quello nel chilometro che c'è aria normale. Ascolta, fatta la legge e trovata l'inganno, poi se lo beccano, certo, se beccano l'ubriaco che ha usato anche, che ha girato quel sistema lì, peggio che mai. Di più ne piglia. E poi queste auto elettriche, boh, non mi convincono. C'è troppo, poco, devi stare mezz'ora lì a aspettare la ricarica, poi in casa ti devi dotare, non è come attaccare la spina, no? E boh, devi avere un contatore abbastanza teccio, poi devi avere una specie di colonnina di ricarica. Adesso me l'hanno spiegato in modo porchedino, no? Io così vi sto ripetendo. E poi rimane a piedi con la macchina elettrica, non è come la macchina a benzina, quella ti lascia sicuramente a piedi. Beh, se uno è imprudente che gira troppo tempo senza caricare, allora sì. Però queste batterie ogni tanto pigliano fuoco, immagina se sei nel parcheggio, nel tuo parcheggio alla base del palazzo, piglia fuoco la macchina e piglia fuoco l'intero palazzo. Figurati si convene avere la macchina elettrica, ogni amare acqua via. Vabbè, il bello è che è silenziosa, cioè manco te ne accorgi, te la trovi dietro la macchina elettrica, dico. E allora? E quello solo perché è silenziosa, basta frenare il colpo davanti a superanza media. No, perché i pedoni già con questo cellulare, che sono sempre con gli occhi fissi, non attraversano e non guardano e non sentono nemmeno il motore della macchina normale, capito? Figurati se sentono una macchina elettrica che arriva nel silenzio più assoluto. E infatti secondo me sono anche pericolose, oltre che ti lasciano a piedi, perché cazzo, c'è poco da fare, si giri di più di chi se li devi girare, ti lascia a piedi. Poi vabbè, hanno un bello spunto anche le macchine elettriche, cioè istantaneo la cosa, come tocchi il pedale, vola. Tu pensa, io non ho mai guidato una di quelle col cambio automatico, figurati se guido la macchina elettrica. Vabbè, già è comodo non stare col cambio sempre a cambiare, no? Soprattutto in città. In città non fai altro che mettere la prima, la seconda e ti devi fermare. Capito? Molti sono fissati, il cambio sì è più sportivo, più valle, più coso, vabbè. È come lo scooter rispetto alla moto, lo scooter accelera e va, punto, freni e si ferma. Questo delle marce, vabbè, a che piace? A me quello del cambio automatico non mi piace per niente. Ma per niente, poi cazzo consumano quest'olio del cambio. Se rimane senza olio o c'è poco olio non ti entrano le marce. Ma lì se non hai perdite il problema non è da. Le macchine per gli asini sono quelle, sono belle quelle con le marce. Infatti, io non le ho mai potute arrampanare quelle con le marce automatiche, col cambio automatico. A parte consuma di più la frizione, perché ce l'aveva mio zio che era paraplegico e allora aveva questa macchina che era tutta modificata. Dice consumava la frizione come nulla. Sono macchine per gente, diciamo, che non può guidare con le marce, cose va bene, ma a me piace proprio cambiare, scalare, mi piace proprio farlo. Che macchina era? Una Fiat di questa persona che aveva... No, perché per esempio la Uno Selecta, se voi vi ricordate, esisteva questa cosiddetta Uno Selecta, che aveva il cambio automatico, però non era un cambio automatico a rapporti, no, che cambiava dalla prima alla seconda, alla terza, alla quarta, no, era un CVT, si chiamava cambio CVT, è come un po' la puleggia dello scooter, capito? Ha un rapporto che varia di continuo. E non so se avete presente come un cambio dello scooter dentro. E io già lo so come, perché ce l'avevo lo scooter, quindi lo so. Cambia da solo, dai. È vero che il passo... Dove passa la cinghia varia il diametro automaticamente in base alla velocità e all'acceleratore, capito? Sì, CVT, non so se lo facciano più nemmeno. E molti, magari invalidi che avevano necessità, prendevano queste macchine della Fiat, poi ci saranno altre marche, però sai, Fiat, con quel cambio lì. Non lo so com'era quella di mio zio, comunque so che era automatica, aveva i freni nel volante, perché lui non poteva camminare, capito? Sì, anche quello, cioè oltre al cambio automatico i comandi erano comunque a volante, cioè freno e acceleratore a volante probabilmente, poi se uno è proprio alle gambe che non le muove, sì. Sì, infatti. Ce l'aveva così la macchina, era però dice che gli consumava sempre la frizione. Consumava rombe di frizione. Infatti sapere che tipo di... cioè CVT, frizione, vabbè, frizione automatica o centrifuga, come si chiama? Bisogna vedere anche come spuntava lui, se spuntava forte, che faceva come sfrizionare. Sa cos'è? Non so che automatico sia. Se era rapporti o se era CVT. Via sei corso. Qualche aggiornamento. Via via. Oh, yeah. Ce l'hai? Scappa, scappa, avanti Marco, avanti, buonasera, buonasera, nuovo palazzo. Un altro? E un altro di quelli che ho. Questo qual è? Quello bestioso? Cavagava. Da un'ondulazione si sente, come quelle cifre verdoline, bello, che dicevo io, Sì, sì, quello lì. Cappa. Dai, salate voi, qui mi sta bloccando. Servirebbe, un caffè ci starebbe anche bene, mi. Ah? Ho detto, guardate voi che mi sto bloccando, io mi sa che vado a farmi il caffè pure. Aspetta che regolo stazionare in questo. Ma mi ascolti? Bene già, però mi sono venuti i dolori, dai, vi ascolto, che mi sono venuti i dolori di colpo. Che strano, affitteli, li arrivano così a tradimento, cioè non piano piano, anche a tradimento arrivano, di botto. Va bene, abbi pazienza, poi già si troverà rimedio. Già, allora dai, io stacco, vado in cucina, poi vado per stanotte a cosa fare e ci sentiamo quando capita. Vabbè, non c'è problema, adesso che ho attaccato questo per scaldare un po', te ne stai andando, va? Dai, non entrerà qualcuno, cazzo, tutti morti, sono il canale dei morti è questo. 50 l'ascolto e tu che parlano. E lasciali ascoltare, deve essere piace ascoltare. Io puoi dire l'altro giorno stavo ascoltando di mattina, ma non potevo entrare perché stavo facendo le pulizie, quindi vi ascoltavo, però non potevo entrare, poi sono entrato a salutare all'ultimo. Vabbè, se devi andare, ciao, ci sentiamo, dai, spendo tutto anch'io. Ciao Marco, ciao Gianni, dai, io vi ascolto, se no chiudo anche questo. Marco se ne sta andando, io me ne sto andando, che ascolti Natali, ciao, buona serata anche a te, ciao Marco, ci sentiamo alle prossime, ciao. batteria, dai, stacchiamo, dai, poi già avremo occasione. Ciao Gianni, così mi organizzo per la cena di stanotte. Ciao Natalino e ciao l'ascoltoni, ciao a tutti.